Al-Ma'un, l'utensile. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Non vedi colui che taccia di menzogna il giudizio? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. È quello stesso che scaccia l'orfano. E non esorta a sfamare il povero. Guai a quelli che fanno l'orazione. الذين هم عن صلاتهم ساهون. E sono incuranti delle loro orazioni. الذين هم يراءون. Che sono pieni di ostentazione. ويمنعون الماعون. E rifiutano di dare ciò che è utile.